E qui l'uccello dorme nascosto nel buio, e per dormirsi è nascosto nel buio, e per dormirsi è nascosto nel buio, e per dormirsi è nascosto nel buio. Il mare, amico mio, canto per te le canzoni che il vento sospingi da te. Il mare, amico mio, canto per lei, per gli uccelli che al freddo verranno da te. E tu si ascolterai, e tu se mi vedrai, prenderai che sono qui, che sono qui, penso a te. Il mare, amico mio, canto per lei, ma la notte la pioggia che piange con me. E qui l'uccello dorme nascosto nel cuore, dorme pure ferito lontano da me. Ma che male c'è, amore, che male c'è, se io non so scordarti mai, me ne otterrò negli occhi miei. Il mare, amico mio, canto per lei le canzoni che il vento sospingi da te. Il mare, amico mio, canto per lei, per l'amore che muore, l'amore che viene. E tu si ascolterai, e tu se capirai, comprenderai che sono qui, che sono qui solo per te. Mare, amico mio, canto per lei, e qui l'uccello dorme nascosto nel cuore, e per dormirsi è nascosto nel cuore, e per dormirsi è nascosto nel cuore.